ci sono più le mezze stagioni, di Roberta Giordano. Eccoci qui, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, finalmente il sabato ci accompagniamo insieme sino alle 15 e questo è lo spazio che voi potete utilizzare per dire finalmente le cose che pensate, le vostre opinioni che non avete potuto dire, non avete avuto modo di dire sulle notizie di questi giorni, della settimana. Esprimere liberamente quello che pensate sui tanti fatti, anche questa settimana veramente ce ne sono tantissimi. Il numero verde, ve lo ricordo dall'inizio, 800 24 0024, numero verde quindi gratuito. Che cosa pensate dei fatti che sono successi questa settimana, che tra poco cercherò come sempre di sintetizzare, anche se sono talmente tante le notizie. Voi vedeste anche soltanto dalle agenzie che passano ogni pochi secondi durante la settimana quante cose in ogni angolo del mondo succedono, e già quelle sono soltanto una piccola parte. Ma intanto comincio subito col salutare la mia opinionista di oggi, che è Maria Latella. Maria, buongiorno, bentrovati. Buongiorno a te, bentrovata. Maria Latella, insomma, basta il nome, una delle firme più prestigiose del giornalismo italiano, direttrice responsabile del settimanale A, da 4 anni conduce questo programma su Sky TG24 che si chiama Nightline, poi sei stata anche nostra compagna d'avventura, no, per qualche tempo, in una bella avventura radiofonica, sì, che mi è molto piaciuta. Qui a Radio 24 hai scritto diversi libri, poi tu spazi dal costume alla politica, tra i libri Regimental, 10 anni con i politici che non sono passati di moda, poi c'è stata Tendenza Veronica, che in questo momento è particolarmente di attualità, insomma, tu poi la conosci da vicino, Veronica Lario. Stiamo preparando una riedizione di Tendenza Veronica. Bene, insomma, mi sembra che sia il momento giusto. E poi l'ultimo che ho qui tra le mani, Come si conquista un paese, i 6 mesi in cui Berlusconi ha cambiato l'Italia, pubblicato da Rizzoli, visto poi il Corriere della Sera è il tuo giornale, sei una delle firme più note del Corriere della Sera. Maria, tra poco allora con gli ascoltatori, con le ascoltatrici cominciamo a fare i nostri commenti, avere diverse angolazioni, questo è il bello poi di questa trasmissione. Tu tra l'altro hai seguito il fatto principale, diciamo, di questi giorni, il G8 proprio lì dall'Aquila per Sky TG24, no? col tuo programma. Una domanda che mi verrebbe da farti, a parte i buoni propositi, le dichiarazioni eccetera, saranno solo degli intenti, dichiarazioni di intenti o qualcosa di concreto poi ci sarà? È sempre questo un po' il timore, no? Con questi grandi vertici in cui sembra sì. La cosa che mi ha colpito di più è la presa di coscienza non formale ma sostanziale che la crisi economica la crisi ambientale, cioè il mettere un riparo a questa autolesionistica corsa verso il baratro che gli esseri umani hanno intrapreso negli ultimi 40 o 50 anni, rovinando le condizioni ambientali del pianeta, ecco, questi due temi siano stati percepiti come non come dire, buoni principi sui quali esercitarsi per darla a bere agli abitanti dei vari stati, ma elementi fondanti della politica dei prossimi decenni. Non a caso il Presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha esordito nella prima conferenza stampa alla quale abbiamo preso parte noi giornalisti accreditati a Coppito, no? nel Media Center di Coppito, ha esordito dicendo il rischio ambiente è un rischio al quale nessun paese della terra potrà sottrarsi. Quindi non è un problema di noi italiani o dei cinesi che stanno inquinando in maniera, diciamo, proporzionalmente più grave di quanto non accada adesso in Occidente. È un problema di tutti. Insomma, nessuno se ne può lavare le mani, no? Diciamo. Ecco. Maria, invece, a proposito del tuo ultimo libro, Come si conquista un paese, tu già nel 93, no, eri inviata politica per il Corriere della Sera, hai seguito l'ascesa. Io ho scritto questo libro perché, se lo andate a leggere, se qualcuno appunto, e per fortuna abbiamo registrato 2 edizioni, un ottimo riscontro, c'è interesse, ma chi lo va a leggere scopre che 15 anni dopo, e al terzo G8, perché nel libro si parla del primo G8 in cui Berlusconi era Presidente del Consiglio, sì, allora come oggi, ebbene le tensioni, i progetti politici che riguardavano l'Italia, i trabocchetti, le insidie, eccetera, c'erano 15 anni fa esattamente come 15 anni dopo. E questa la storia di questo paese, come dire, fa riflettere, ecco. Ecco, infatti questo libro è anche particolarmente interessante, non solo perché l'ha scritto Maria Latella e per i contenuti che ha, ma anche proprio perché davvero racconta la storia del paese e quelli che sono un po', diciamo, le sue caratteristiche nel bene e nel male, forse anche un po' più, diciamo, come potremmo dire, buona parte di malcostume, ma non soltanto. Questa è in ogni caso l'Italia. Ma adesso, prima di andare sulle notizie di questi giorni, io direi di fare anche un collegamento, come si può dire, extraplanetario, sì. Riflessioni da Marte. Ecco, giusto qualche breve considerazione, come sempre, da quassù. Vi ricordate che Eccleston, il patron della Formula 1 e non un qualsiasi potatore di platani, aveva detto la scorsa settimana che Hitler, lui sì, che sapeva come far funzionare le cose, e aveva lodato nel contempo, Eccleston aveva lodato i regimi totalitari, aveva criticato le democrazie. Ebbene, ve lo ricordate? Ora, in un'intervista al giornale tedesco Bild, dopo una tempesta di polemiche di questi giorni, ovviamente, insomma, sembravano inevitabili, dice tutto contrito, Eccleston: mi dispiace, sono stato un idiota. Stato? Siamo sicuri? Si sarà veramente sbarazzato Eccleston in pochi giorni dell'eccesso di idiozia? Beh, insomma, cerchiamo di pensare positivo, come si dice. E nel frattempo si fa sentire anche Ahmadinejad, il presidente iraniano, che, pensate, dal bel mezzo di un paese in rivolta, è messo a ferro e fuoco da una durissima repressione, fa sapere Ahmadinejad che, attenzione, l'Iran condanna l'uso della forza da parte della polizia italiana per reprimere le manifestazioni degli oppositori del summit G8 dell'Aquila, invitando sempre l'Iran, sempre Ahmadinejad, il governo italiano a rispettare gli impegni internazionali e i diritti umani. Insomma, da noi su Marte questo si dice, aspettate che sto guardando nel dizionario marziano, si dice faccia di tolla, come si dice in Iran, ce lo diranno, ma ce n'è d'avanzo anche in Italia, perché sembra sia stato finalmente acciuffato lo stupratore seriale, quello di Roma, no? Lo dice il DNA, che è proprio lui, quello che insomma ci aveva proprio preso gusto. E cosa si scopre? Non solo che gli si potrebbero probabilmente attribuire 15 altri stupri sinora, che sono stati senza colpevole, ma che già era stato denunciato per un violento tentativo di stupro, anche lì con coltello, si era fatto giusto un pochino di gattabuia. E beh, qui sorgono però spontanee due domande. Perché era libero come il vento e libero di continuare a fare quello che gli andava di fare? E soprattutto, quand'è che in Italia lo stupro, che devasta per sempre la vita di una donna, verrà considerato davvero come un reato, un gravissimo reato? Maria Latella, io volevo farti anche questa domanda a proposito del G8, ma c'è sempre un filo conduttore con queste domande. Quando è che vedremo un G8, G14, G20, insomma allargato possibilmente, tutto di donne leader con i loro first mister al seguito, secondo te? Io spero mai. Perché? Perché, Maria? Io spero mai. Perché significa contaminarsi? Significherebbe che abbiamo contribuito a devirilizzare il pianeta ed è una di quelle prospettive che io considero agghiaccianti. Io da sempre, da quando ho cominciato ad andare in una scuola, in una classe mista, quindi superate le elementari, che a Sabaudia, dove vivevo, erano rigidamente separate, bambini da una parte, monosessuali dall'altra. Ecco, ma dalla prima media in poi ho vissuto benissimo con i compagni di scuola maschi. Prima ho scelto un lavoro che, quando l'ho cominciato nei primi anni '80, era ancora prevalentemente maschile. Beh, comunque a dirigere moltissimo. I giornali ci sono ancora sempre uomini, a parte i settimanali. Ho imparato moltissimo dai miei colleghi maschi, dai miei direttori maschi. Ho imparato meno, ma solo perché ho avuto meno contatti con donne che fossero ai vertici, ma quelle che ho incontrato sono state ovviamente dei magnifici incontri. Ma io un G8 di sole donne con i mariti al seguito non me lo augurerei. Mi augurerei molte cancelliere Merkel. Ecco, la mia era una provocazione. Premier come quelli che abbiamo visto. La cosa che disturba è che ci sia una sola, appunto, cancelliera. Ecco. La rappresentanza femminile c'è già, come dire, siate contente così. Però devo anche dire di essere abbastanza ottimista, perché al di là dell'Italia, che è al momento un paese tra i più retrivi e maschilisti del pianeta, dove abbiamo una presidente di Confindustria donna, ed è l'unica, l'unica, diciamo, donna che vediamo scorrere nei telegiornali, eccetera, quando si parla di futuro, di economia, eccetera. Questo è impressionante, che si vedono e soltanto uomini a decidere le cose in qualsiasi ambito. Non è così, per esempio, no? Nei governi spagnolo, francese, tante ministre, per non parlare della solita citatissima Scandinavia, le donne sono numerose e in ruoli di grande responsabilità. Per cui, esattamente come abbiamo avuto una cancelliera Merkel in Germania, e come avremmo potuto avere un presidente della Repubblica francese se avesse vinto Ségolène Royal, che non ha vinto perché evidentemente era meno brava del suo competitor maschio, e evidentemente il merito da qualche parte viene riconosciuto. Se ci sarà nei prossimi 10 anni un concreto passaggio del riconoscimento del merito come questione prioritaria, e allora tante donne che sono brave, più brave dei loro competitor maschi, saranno al loro posto. Ecco, il salto di qualità, un competitor maschio sarà più bravo della donna, ci dovrà essere lui. Il salto di qualità è questo, fare un criterio di meritocrazia e non di sesso, ovviamente, di potere. Io veramente non conosco. Però per ora non è stato così. Non conosco altra salvezza né per come dire, la vita delle singole aziende, che per il futuro dei singoli paesi. O ci si arrende al fatto che quelli bravi devono avere delle chance in più, oppure si condanna le realtà che possono essere le aziende, le amministrazioni pubbliche, i paesi al declino. Allora, cominciamo a sentire le ascoltatrici e gli ascoltatori al numero verde 800 24 0024 sui fatti di questa settimana, ma anche su altre cose che vengono fuori comunque dalla nostra chiacchierata. C'è Renato da Roma. Pronto, buongiorno, Renato. Buongiorno a te, Renato. Roberta, sono Renato Pascariello. Buongiorno, sì, grazie nome per l'invito. Sì, volevo semplicemente dire questo, insomma, le donne in generale sono molto brave, molto capaci, e sicuramente possono fare molto, naturalmente, non solo per l'Italia ma per il mondo. Credo che tra l'altro loro hanno una grande sensibilità per la bellezza, e quindi credo, diciamo così, che incontri a vari livelli sicuramente in cui siano impegnate donne, quindi possono sicuramente portare grandi vantaggi. Io sono un artista, Roberto, faccio sculture, sì, e ho ideato un gran, diciamo, un obelisco per la pace, per la, diciamo, cultura nel mondo. Bene, promuoviamolo, promuovete, facciamo, arricchiamo, abbelliamo l'Italia, abbelliamo il mondo, abbelliamolo con la bellezza. Io sento dire da donne veramente straordinariamente intelligenti: il mondo ha bisogno di bellezza, e chi più delle donne può contribuire a diffondere il messaggio del bello, perché loro mi dicono il mondo ha bisogno di bellezza, ma bellezza in tutti i settori. Io certo, sono, faccio sculture, mettiamole in Italia, dovunque volete, faccio donazioni, sono a vostra disposizione. Grazie Renato, era anche un piccolo autospot, però è vero, certamente le donne, spero non soltanto loro esteticamente, fisicamente, sono sensibili alla bellezza, ma alla bellezza in senso davvero lato, no? Anche semplicemente la cura dell'ambiente, del pianeta, è bellezza, e anche l'arte, l'intelligenza, la cultura, la sensibilità sono bellezza. C'è adesso Giovanni da Lecce, dalla Puglia, quindi. Giovanni. Sì, sì, buongiorno dottoressa, grazie per avermi richiamato. Grazie, senta, grazie a te. Due osservazioni. Sì. Io stamattina leggevo La Repubblica e si diceva praticamente che lo stupratore di Roma era stato sì condannato, ma era stato dichiarato incapace di intendere e di volere. Sì. Questa è la giustizia italiana. Sì, appunto. Ecco, il secondo aspetto, io sono un grande ascoltatore di Cruciani perché la sera rientro a casa e quindi ascolto la radio. Sì. E ieri sera si faceva un gran parlare sul documentario Berlusconi Citizen. Stamattina ho cercato di vederlo su YouTube. Praticamente, guardi, pensavo che qualcosa di sconvolgente, qualcosa che mi avrebbe lasciato col fiato sospeso fino alla fine. Nulla di eccezionale. Io invito tutti gli italiani a vederlo questo documentario, perché si fa un gran parlare, come mai la RAI, Mediaset, nessuno trasmette questo programma. Guardi, mi creda, è tutto quello che gli italiani già sanno. Tra l'altro, uno degli dei personaggi più importanti di questo documentario è il Travaglio. Mm-hmm. Quindi voglio dire, nulla di incredibile. Voglio dire, Giovanni, allora alle ascoltatrici e ascoltatori, dai qualche ragguaglio su quello che hai visto. Ma nulla di eccezionale, si dice tutto quello che puntualmente si dice in ogni trasmissione di Anno Zero, quando Travaglio fa le sue omelie. Poi praticamente si può tranquillamente guardare il TG3 ed è la stessissima cosa. E guardi, lo dice uno che non è un grande ammiratore di Silvio Berlusconi, guardi, proprio glielo dico in una maniera così spassionata, tranquillo, proprio senza alcun problema. Io invito tutti gli italiani a vederlo una buona volta, questo documentario, mi creda, nulla di nuovo. È tutto trito e ritrito. Grazie. Prego Pietro, quindi nulla da vedere secondo Pietro, da scoprire. Ecco, sempre Roberta Giordano con voi sino alle 15 insieme. In collegamento c'è Maria Latella, direttrice responsabile del settimanale A, conduce da 4 anni su Sky TG24 il programma Nightline, firma prestigiosa del Corriere della Sera, appena pubblicato Come si conquista un paese, per Rizzoli, 6 mesi in cui Berlusconi ha cambiato l'Italia. Voglio sentire ancora un ascoltatore, poi potete continuare a chiamare il numero verde 800 24 00 24 che è Pietro da Rimini. Pietro, sento già la mia eco. Pietro. Sì, pronto? Puoi spegnere la radio, Pietro, per favore? Sì, ci sentiamo. Sì, è basta. Benissimo. Zero. Sì. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Volevo fare un intervento di questo tipo. Prima ho sentito in apertura lei e la sua ospite che praticamente forse per la prima volta il vertice dei potenti della Terra si è reso così conto di quelle che possono essere le problematiche ambientali, no? Forse come mai prima d'ora. E tra l'altro la sua ospite diceva che in Italia Berlusconi, che presiede per la terza volta il G8, forse tutto sommato poi le problematiche sono sempre quelle. Poi da una parte sento, che so, Ferrara o alcuni giornali che sono vicino a Berlusconi, che mi sembra che non siano così catastrofisti, anzi siano un po' contro i catastrofisti, li chiamano loro dell'ambiente, no? Sì. Non so, volevo capire se ci poteva essere secondo voi un nesso fra le due cose. Cioè in che senso, Pietro? Mentre da una parte pare che per la prima volta voi dite i grandi della Terra sono veramente forse sensibili a questa cosa, per quello sì, che riguarda i problemi ambientali, dall'altra parte, da noi in Italia, per le cose non cambiano mai, dopo 3 volte che Berlusconi presiede il G8, quindi da 15 anni questa parte, non so quanti anni sono, e guarda caso gli organi di informazione che sono vicini al Presidente del Consiglio non mi sembrano così preoccupati di quelle che sono le tematiche ambientali, anzi, mi sembrano preoccupati di coloro che si occupano delle tematiche ambientali. Ho capito, Pietro. Ti ringrazio e darei la parola a questo punto a Maria Latella. Maria, cosa ne pensi? Io penso che non so se la posizione alla quale faceva riferimento il nostro ascoltatore, assunta dalla foglia di Giuliano Ferrara, si possa giudicare perfettamente in sintonia con quella del Presidente del Consiglio, perché tante volte noi diciamo quotidiani vicini a questo o a quel politico, ma non su tutti gli argomenti, certo. Poi c'è questa sintonia sempre, no? Tra giornalisti o direttori dei giornali e i politici, talvolta sì. Ci sono anche delle critiche, però Pietro... No, ma si fanno delle deduzioni, non essendo poi direttamente a conoscenza delle opinioni dei singoli opinionisti o giornalisti. Per quello che ho potuto constatare partecipando alle conferenze stampa dei vari leader presenti al G8, io ho avuto la netta impressione che l'argomento ambiente venga considerato la prima emergenza, ma anche in Italia, diceva Pietro, alla quale applicare le migliori intelligenze e le migliori risorse. Sia l'Italia che gli Stati Uniti hanno fatto una giravolta sensazionale, a mio avviso, negli ultimi mesi, perché gli Stati Uniti per anni sotto l'amministrazione di George W. Bush sono arrivati al negazionismo quasi, sostenendo che si parlava di emergenza ambientale, eccetera, per motivi politici, di interessi, di lobby, esagerazioni. Anche invece erano cambiamenti naturali, diciamo, ciclici. Ecco, probabilmente era in atto uno scontro tra lobby pro e contro il business del petrolio. Nel giro di pochi mesi, e l'ha riconosciuto lo stesso Barack Obama, questa amministrazione ha cambiato totalmente posizione rispetto alle decisioni da prendere, ha cambiato posizione teoricamente, attenzione, non tanto in concreto, non ancora, perché negli Stati Uniti la benzina si paga ancora molto poco e sarebbe estremamente impopolare per l'amministrazione di Barack Obama alzare ora, oggi, ancora di più il prezzo della benzina. Tuttavia a quello dovranno arrivare, a quello gli americani dovranno arrendersi dopo 50 anni di consumi allegri sulle spalle di altri paesi. Dovranno arrendersi perché India e Cina, che già oggi mostrano di poter fare a meno, no? Per esempio della moneta condivisa che era il dollaro, che sempre è stato il dollaro, che magari domani non potrebbe esserlo più, ebbene India e Cina negli incontri ufficiali del G8 hanno detto e ribadito mille volte, ma l'hanno detto gli stessi premier, che per loro gli accordi non sono vincolanti, non sono tenuti loro ora a fare delle concessioni pesanti per le loro economie dopo che per 40 anni gli altri hanno fatto quello che volevano, consumato, e gli Stati Uniti soprattutto hanno consumato tutto in quello maniera che si assolutamente ma a questo proposito Maria, io ti volevo chiedere cosa ne pensi del ritorno nucleare, perché tra le notizie di questa settimana io sono favorevole, no? Avevo votato a suo tempo nel referendum avevo votato perché il nucleare restasse con una posizione che all'epoca ero insomma più giovane eccetera, suscitò la riprovazione di molti miei amici che erano ferventi anti-nucleari. Io pensavo che allora, e lo penso tutt'oggi, che quella decisione presa sull'emozione di quanto era accaduto a Chernobyl fosse effetto di una manipolazione. L'opinione pubblica italiana fu manipolata in quell'occasione, è una mia convinzione, diciamo supportata poi in seguito anche da conversazioni che ho avuto con persone che sapevano meglio di me come stavano andando le cose. In quell'occasione l'opinione pubblica è stata manipolata, non è stata né la prima né l'ultima volta in cui un'opinione pubblica viene manipolata, non sarà certo l'ultima. Comunque, sull'onda di Chernobyl l'opinione pubblica italiana fu convinta che fosse necessario rinunciare al nucleare, fu una scelta devastante, disastrosa, che ha aiutato moltissimo l'economia delle aziende petrolifere, ma molto meno quella del paese in sé, che ha rallentato moltissimo la ricerca in Italia, ha fatto sì che uno dei poli che poteva avere un futuro brillante come quello che c'era a Genova all'epoca, con le migliori menti, le più brillanti sul fronte appunto della ricerca e dell'ingegneria nucleare, si ritrovasse dall'oggi al domani senza più nulla da fare. È stata una scelta disastrosa, manipolata, e sono molto contenta che oggi si ritorni indietro. Non so quanto serva oggi. Comunque sentiremo, sarà interessante sentire se vogliono anche le ascoltatrici e gli ascoltatori su questo tema. Ricordo il numero verde sempre 800 24 00 24. Prima di fare questa piccola pausa vorrei sintetizzare un po' alcune delle notizie. Abbiamo parlato del G8 dell'Aquila, delle notizie di questa settimana, Obama che ha promesso al Papa di cercare di fare in modo che ci siano meno aborti negli Stati Uniti, la strage di Viareggio, sapete che ci sono stati i funerali solenni delle vittime che purtroppo sono salite a 24 adesso, il grande memoriale per la morte di Michael Jackson, la pagina, l'inserzione sull'Herald Tribune di Pietro in cui fa appello alla comunità internazionale per la democrazia italiana in pericolo, la situazione in Iran dove la repressione continua, gli scontri etnici in Cina con un sacco di morti, avete sentito, abbiamo detto poi dello stupratore seriale che è stato arrestato a Roma, il delitto Reggiani, Giovanna Reggiani, vi ricordate nel 2007 quello stupro e omicidio terribile alla stazione di Tor di Quinto, si è ricorsi in appello per quello che è stato condannato come sua assassino. assassino e da 29 anni adesso ha avuto l'ergastolo, quindi è stata aggravata la pena. Poi il caso dei VIP che sarebbero stati spiati dai giornali del magnate australiano dell'editoria Murdoch, il deputato leghista Matteo Salvini che si è dimesso da deputato in Italia, ma è eurodeputato, per la canzone razzista che stava canticchiando in questo video che è andato su YouTube. Poi le varie vicissitudini del PD, l'Italia che abbiamo detto ritorna nucleare. Vi ricordo che da stasera c'è lo sciopero delle ferrovie per 24 ore dalle 21. Il sorpasso di Sky su Mediaset, che è una cosa che potrebbe interessare particolarmente da vicino Maria Latella, visto che a Sky lavora. Eccoci ancora qui insieme, Roberta Giordano, sempre con voi sino alle 15, e c'è in collegamento Maria Latella, prestigiosa firma del Corriere della Sera, conduce su Sky TG24 Nightline, ha appena pubblicato Come si conquista un paese e stiamo commentando naturalmente le notizie della settimana insieme a voi al numero verde a cui chiamate, che è 800 24 00 24. Prima vi ho fatto appunto minima sintesi dei tanti fatti di questi giorni. Sentiamo su quale si vuole soffermare Carmine, che chiama da Napoli. Carmine. Buongiorno e buon lavoro a tutti e due, sia a lei che alla dottoressa Latella. Grazie. Senta, io volevo parlare di G8. Sì. Se mi è consentito, io sono un estimatore, un amatore del presidente Obama. Sì. Però vorrei, Rossella stamattina mi ha anticipato sul giornale, vorrei sapere se quelle cose che ha fatto Carlo Rossella? Obama... Sì, Carlo Rossella, sì. Mi ha anticipato, ho letto le mie stesse cose che dice Rossella, sono pienamente d'accordo. Ah, pensavo che fosse stata una fuga di notizie. Stare a mezze maniche, fare la fotografia vicino al presidente della regione, non ricordo, la signora un po' bassina che si è calata. Che Stefania Pezzo Pane. Che cosa sarebbe successo tutti i giornali della sinistra? Non si sono scagliati contro Obama tutte quelle cose che ha fatto, che io per me saranno scemenze, saranno fatto bene o meno. Se l'avrebbe fatto Berlusconi, che sarebbe accaduto? E poi vorrei dire una cosa, un'altra, se mi è consentito. Di Pietro ha comprato 40.000 euro un foglio sul giornale che critica Berlusconi. Ho parlato ieri mattina con il dottor Giordano, il direttore del giornale, e penso che gliela farà, sì, del giornale, dottor Giordano, pensa che gliela farebbe gratuita se lui farebbe le scuse a tutti gli italiani, compresa Berlusconi, tutte quelle scemenze che dice. Fortunatamente che la magistratura si è liberata di un personaggio del genere, solo che adesso ce l'ha data a tutti noi italiani nel Parlamento. La ringrazio. Grazie a te, Carmine. Poi dopo, adesso vorrei sentire ancora degli ascoltatori, vorrei sapere da Maria Latella cosa ne pensa di questa inserzione di Pietro sull'Herald Tribune. Però ancora voce a chi sta chiamando il numero verde 800 24 00 24. C'è Anna da Lucca. Eccoci, Anna. Ciao. Ciao, Anna. Ciao Roberta. Ciao. Ti sento benissimo. Che cosa ti ha colpito questa settimana? Prima di tutto permettemi da fare una piccola riflessione sulla tua presenza nei reportage più toccanti. Mi riferisco a quello fatto sulla funerale di Michael Jackson, avevo seguito sin diretta. E poi quell'altro, Amiche per l'Abruzzo, che non è al caso. Sì. La presenza di Roberta non è al caso. grazie mille. Speriamo che sia così. Grazie mille, Anna. Vorrei partire un po' dal funerale di Viareggio. Sì. Dove fra tante vittime ci sono anche due badanti. Poi passo alla legge che ora si sta discutendo per le colf e badante. Non sono una badante, però conosco molto bene questo campo e invito a riflettere proprio tutti coloro che si occupano di queste cose. Non ho mai sentito né da un chiarimento politico né da un altro, parlandosi proprio di giornata libera che le badanti devono avere. E sappiamo bene che questa cosa non è rispettata, e parlo in conoscenza di causa. Cioè, dice Anna, lavorano 7 giorni su 7? Sì. Conosco tantissime che sono dedicate proprio alle famiglie, a queste persone anziane che stanno seguendo proprio fino alla morte. E ricordiamoci che quelle due vittime che ho notato prima sono morte lavorando. Lavorando. E poi invito un po', perché la classe politica a me mi fa un po' di confusione. Da una parte sono preoccupati dimenticando il diritto fondamentale, quello che ognuno di noi ha di spostarsi da un posto all'altro in tutto questo il mondo, e da un'altra parte fanno degli elogi all'Obama, al presidente americano. Mm. Leggiamoci bene tutti noi le origini di Obama. In un paese democratico siamo arrivati a scegliere, a essere eletto come presidente. Negli Stati Uniti anche questo, effettivamente, al G8, dicevo, vorrei vedere tante donne finalmente, anche la presenza di un nero, che è poi il massimo leader in questo momento, è sicuramente una cosa rivoluzionaria. Anna, ti ringrazio moltissimo e ti ringrazio anche di aver ricordato effettivamente una categoria di donne, tra l'altro, che senza la quale possiamo dire negli ultimi anni come sarebbe andata avanti l'Italia, no? Visto che ormai tutti lavorano in famiglia e naturalmente sembra un diritto dovere delle donne e degli uomini, e le persone che non hanno possibilità di gestirsi autonomamente, soprattutto gli anziani, i malati, insomma, come si sarebbe andate avanti le famiglie senza le badanti? Anche questa cosa del diritto a un giorno di riposo mi sembra il minimo. Ci sarà l'emergenza, l'esigenza di seguire certe persone non autonome ogni giorno, però una soluzione bisogna trovarla, perché non si può scaricare tutto il peso su delle persone che partono, diciamo, svantaggiate per la situazione da dove vengono, per il loro status in Italia. C'è Alessandro dalla provincia di Alessandria, bisticcio, sì, di parole. Alessandro. Sì, dottoressa, buongiorno. Buongiorno, puoi chiamarmi Roberta, tranquillo, sono dottoressa, sì. Roberta, io mi sono, piace. Molto giovane, ho 26 anni. Bene. Quindi, volevo intervenire su una serie di cose di cui state discutendo. Sì. La prima, mi trova d'accordo con la dottoressa Latella, che mi permetta di salutare, sono un suo spettatore assiduo. Mi trova d'accordo sul concetto di meritocrazia. Mm-hmm. Io non mi prendo per maschilista, però preferirei avere al G8, al G20 delle persone che lo meritano, che sono veramente dei leader, piuttosto che delle donne, insomma. Alessandro, però ti dico subito, perché questo ragionamento si fa sempre quando si parla di donne? Se tu guardi il G8, qualsiasi vertice internazionale, chi è a capo degli stati nel mondo, chi dirige l'economia, la finanza, la religione, anche qualsiasi cosa, gli eserciti, sono sempre uomini. Quando si dice, beh, però forse anche qualche donna, allora lì subito si alza la bandiera della meritocrazia. Secondo me non c'è la meritocrazia, perché sennò ci sarebbero tante, tantissime più donne in luoghi di potere. Ma io sono convinto di sì. Non vedo, onestamente non vedo, come dire, non sono un paladino di questa crociata, donne a tutti i costi. Io vedo molti, molti posti pubblici occupati da donne. Scusa Alessandro, sì. Però il fatto è questo: se al vertice G8 ci fosse stato un unico uomo e tante donne, si sentiva la cosa un po' strana. Col fatto invece che sono sempre tutti uomini, a parte Angela Merkel, questa si ritiene una cosa normale. Sarebbe un'anomalia se fossero invece tutte donne, e ci verrebbe il dubbio, ma sarà meritocrazia che ci siano lì tutte donne? Forse è meglio un uomo cretino che una donna, ma così io, così. Ma, Roberta, dottoressa, non credo che sia. Anche io personalmente non avrei mai pensato che fosse un'anomalia. Ricordo che ci sono almeno due ministri donna, che sono peraltro stati molto contestati. Almeno due ministri su un governo che ha parecchi ministri, forse qualcuno in più non sarebbe malissimo. Ma sicuramente, no? Sicuramente. Però posso fare un'altra considerazione? Sì. Sulla questione del documentario che citava qualche minuto fa un ascoltatore. Bene, Giovanni. Ha detto una serie di cose che non mi hanno trovato d'accordo. Mm. In primis, che questo documentario è del 2001, quindi nel 2001 il mondo, non noi italiani, il mondo veniva a conoscenza, approfondiva una tematica, perché il documentario è francese, lo ricordiamo, una tematica che era per lo più sconosciuta agli occhi del mondo e dell'Europa. Ed è questa la forza di Citizen Berlusconi. E vorrei ricordare, me lo permetta, che è in onda su Current TV, non è stato completamente censurato dalla televisione italiana. E questo è il significato, mi sembra che sia la prova che non è importante tanto quanto dica, quanto che sia un simbolo di una determinata, come dirti, di una determinata politica che ha intrapreso questo documentario francese. Alessandro, tu vuoi spiegare qualche elemento che ti ha colpito di questo documentario? Ma io, guarda, per mio studio personale conosco bene, molto bene, la storia degli ultimi 25 anni dell'Italia. Ma, so benissimo. Cioè la tua vita praticamente, sei 26 anni, insomma. Sì, esatto, okay. Sì, sì. Pronto? Però cosa è successo ad Alessandro? Assicuro che non è censura questa. Semplicemente, ecco, con tutta la linea. Vediamo se riusciamo a recuperarlo, perché è brutto lasciare così i discorsi in sospeso. Mi sembra che stesse dicendo delle cose interessanti. Maria Latella, non so se vuoi intervenire su qualcosa che è stato detto, anche per esempio sull'inserzione di Pietro sull'Herald Tribune o qualche altra cosa. Prima vorrei fare un commento sull'esordio di Alessandro, che ringrazio. Lui ha detto: sono molto giovane, ho 26 anni. Sì. A 26 anni non si è molto giovane. Aia. Cioè, dobbiamo partire da questo presupposto. Mm. Gli italiani si considerano molto giovani a 35 anni. No? Chi fa radio lo sa, c'è gente che telefona e dice: sono un ragazzo di 38 anni. Ma quale ragazzo? A 26 anni si è adulti largamente, non si è giovani. Hai capito, Alessandro? Ecco. Si è adulti, quindi uno deve dire: sono Alessandro, 26 anni, eccetera, ma non sono molto giovane. A 16 anni si è molto giovani. Sai, Maria, che c'è questo desiderio di essere giovani per sempre, sempre ma, di più. Ma non, no, va bene, ma non va bene, bisogna essere consapevoli del fatto che la maturità comincia a 18 anni. Allora, a 18 anni uno ha la maggiore età, si può definire giovane fino a 24 anni. Dai 24 anni in poi si è maturi, cioè normalmente la gente a 28 anni dovrebbe avere da anni un lavoro e cominciare a pensare a una propria famiglia. In Italia c'è gente che a 42 anni ancora dice: sono un ragazzo, sono una ragazza. È vero, è una mentalità giovanistica, però distorce tutto il metodo di classificare le varie stagioni della vita, il che non significa che poi uno a 70 anni non possa essere ancora in piena attività, anzi sarà, perché a 70 anni bisognerà tutti lavorare, ma ci sono ragioni che portano a considerare una persona di 26 anni pienamente inserita. Maria, allora sentiamo, perdona un attimo, Alessandro l'abbiamo recuperato, visto che doveva completare il suo discorso. Alessandro, riesci a essere sintetico a dirci in pochi istanti quello che avevi in mente? Sì. Il documentario sostanzialmente, io posso rispondere brevissimamente alla dottoressa Latella, mi trova intanto ragione. Intanto sei un uomo maturo, responsabile? Sono un uomo maturo, volevo dire molto giovane, probabilmente rispetto agli ascoltatori che sento chiamare la vostra trasmissione, tutto qui. Piuttosto eterogenei, comunque. Sì, prego, esatto, Alessandro. Sì, in realtà sì. Il documentario, come dicevo, consiste sostanzialmente, ripercorre tutta la carriera economico-politica di Berlusconi. Che sia interessante o no, questo decidono poi gli spettatori. Francamente mi è molto piaciuto che una televisione come Current TV l'abbia come dire trasmesso. In realtà su YouTube si trova l'intero documentario. Vorrei aggiungere solo una cosa rapidissima: non mi trova d'accordo la dottoressa Latella sulla questione del nucleare. Vorrei ricordare che le centrali nucleari non sono il maggior rischio delle centrali nucleari non è quello dello scoppio come Chernobyl, delle scorie, ma è le scorie e soprattutto l'inquinamento delle falde acquifere, che molte poche persone sanno. Saluggia e le altre le altre centrali nucleari italiane soffrono di questo problema perché sono molto vecchie, è vero, ma la questione, il funzionamento di una centrale nucleare più o meno è sempre quello, una piscina dove sono immerse delle barre di uranio. Senti Alessandro, mi incuriosisce a questo punto sapere che cosa fai nella vita. Io sono un giovane imprenditore. Un giovane imprenditore. Sì, siamo d'accordo. Purtroppo non vivo da solo perché non me lo posso ancora permettere, lo dico con molta sincerità. No, ma diciamo che un po', non so se Maria è d'accordo, è un problema comunque dei tempi più contemporanei, il fatto che le cose, non so, costano di più, siamo in periodo di crisi, sì, gli studi vanno a lungo. Però Roberta, posso dire? Grazie Alessandro, intanto prego Maria. Le cose costano di più, d'accordo. Le cose, le case, ma, tutto il resto. Sì. Le cose, le case, lo standard di vita. Ma se io avessi 18 anni oggi, rinuncerei al fatto di avere il televisore in camera, la mamma che mi porta la prima colazione e il fatto che mi posso comprare 4 stupide magliette, e accetterei di andare a vivere magari con 4 altri amici coetanei, a fare la lavatrice insieme, a fare la spesa, a vivere molto più poveramente dello standard che probabilmente vivere con i genitori mi consentirebbe, ma che mi darebbe quella cosa meravigliosa che è l'esperienza del diventare adulto e indipendente. Uno dei problemi italiani è l'eccesso di familismo, che può essere anche un grande aiuto psicologico, ma è anche alla base di molti ritardi e del fatto che si perpetua una continua deresponsabilizzazione. Tu sai però, Maria, a 42 anni dicono sono un ragazzo, lo dicono perché i genitori consentono loro di sentirsi di dire, così. Sono un ragazzo. Però Maria, sai che anche negli Stati Uniti c'è un ritorno a casa di molti che magari erano riusciti a prendere la loro strada indipendente, sì, poi per questioni economiche. È un ritorno a casa che viene vissuto come un'umiliazione. Quando si torna a casa, gli americani e le ragazze americane trovano che la loro cameretta è stata destinata ad altri usi, che la madre l'ha trasformata in un lavanderia o nella stanza dove fa ginnastica, e quindi capiscono perfettamente che deve essere una situazione temporanea. Questa è la differenza, mentre in Italia la situazione temporanea per sempre è quella di stare con mamma, papà, il nonno, lo zio, è una deresponsabilizzazione che crea enormi danni, secondo problemi te. E danni. Allora, io un altro dei tanti argomenti, quindi buttati, diciamo, gettati sul tappeto. Se volete intervenire sui fatti della settimana e su quanto si sta dicendo, c'è sempre il numero verde 800 24 0024. Prima della viabilità vi ricordo che poi domani, domenica, ci sentiamo ancora in due appuntamenti, a parte che va in replica anche, non ci sono più le mezze stagioni, alle 17, però poi c'è la mattina alle 6:15 Storielle, domani ci sarà la campionessa del mondo di windsurf, la medaglia d'argento a Pechino, Alessandra Sensini, e poi dalle 19 invece Ornella Vanoni, sempre in chiacchierata con me. Eccoci, ultimi 10 minuti più o meno per stare insieme qui a Non ci sono più le mezze stagioni. Sempre Maria Latella è in collegamento, giornalista, direttrice del settimanale A e firma prestigiosa del Corriere della Sera, appena pubblicato il libro Come si conquista un paese, i 6 mesi in cui Berlusconi ha cambiato l'Italia. Il numero verde per voi ascoltatrici e ascoltatori è sempre lo stesso, 800 24 0024. Tra l'altro, di tutte le notizie e le cose di cui abbiamo parlato insieme fino adesso, mi viene in mente, unisco delle notizie che invece sono più parallele, più marginali, che magari non trovano spazio sui giornali, però o nei radiogiornali, eccetera. Per esempio, come superano la crisi, delle idee per superare la crisi in questo momento. In California, che sapete è proprio sull'orlo della bancarotta, mi chiedo come sia arrivato a questo punto lo stato di Schwarzenegger, però vabbè, hanno deciso, cioè, anzi, dei promotori di un'associazione pro marijuana, diciamo, hanno proposto di tassare la marijuana e sono convinti che legalizzandola e tassandola potrebbero raccogliere miliardi in poco tempo, mentre c'è il New York Times, il principe dei giornali americani, che sta decidendo lì per chiedere $5 al mese per accedere al suo sito online, sito web che hanno ormai tutti i giornali, no? Anche italiani, ecco, sarebbe uno dei primi, forse il primo, non so se Wall Street Journal, forse a pagamento. E poi, per quanto riguarda l'ambiente, invece in Australia è partito da una piccola città questa idea, e adesso non mi ricordo come si chiama, di mettere al bando le bottiglie di plastica, così hanno deciso i cittadini, e piano piano sta contagiando un po' tutta l'Australia questa cosa, quindi vi immaginate quanto inquinamento in meno, e anche non soltanto in termini di plastica materialmente, ma anche di imbottigliamento, di camion che trasportano l'acqua, eccetera eccetera. Comunque, ritorniamo sulle vostre telefonate. C'è Allais da Roma? Questo è il tuo nome? Pronto, Allais. Allais. Io ho dato il cognome perché intanto. Ah, è il tuo cognome. Sono abituata così, ma insomma. E va bene, chiamiamoci per quello. Sì. Sono una giovane ragazza di 75 anni. Dalla voce si direbbe di sì. Sì, molto giovane. Comunque, no, siccome anche l'ascoltatore che mi ha preceduto ha toccato l'argomento delle scorie nucleari, io volevo sentire dalla signora Latella come lei risolverebbe questa cosa, perché una delle cose gravi del nucleare è proprio questa, che ancora non si sa come eliminare queste scorie. E siccome non mi sembra una cosa da poco, volevo sentire un po' il suo parere. Grazie. Allais, me lo dici, uno pseudonimo? No, veramente un cognome. Volevo sapere uno pseudonimo per chiamare per cognome. Anche a scuola mi ricordo, io mi arrabbiavo molto, per esempio, quando mi chiamavano per cognome, io non chiamavo mai nessuno per cognome. Però se tu dici che ti trovi... No, va bene, io mi chiamo Magda. Magda, è così bello il nome Magda. Grazie Magda, grazie. Grazie a voi. Poi chiederò a Maria Latella, appunto, giriamo questa domanda di Magda, ma prima, visto che parlai di First Lady all'inizio, vorrei coinvolgere Valeria Della Valle, come sempre, qui non ci sono più le mezze stagioni, donna dall'estremo dono della sintesi, Valeria Della Valle, linguista della Sapienza di Roma, che ne pensi di questo termine, che a me sembra un po', insomma, a me dà un po' fastidio, ecco, perché c'è sempre solo il femminile, però linguisticamente come lo analizzi? Allora, come lo analizzo? Intanto First Lady come espressione è nata proprio negli Stati Uniti per indicare la moglie del presidente. E come siamo messi nel resto del mondo? Certamente First Lady, l'espressione inglese oramai è usata dappertutto. È vero che in Francia hanno la Première Dame e in Spagna la Primera Dama, poi loro hanno una monarchia, allora lì c'è la reina consorte. E venendo a noi, noi non lo possiamo tradurre naturalmente prima donna, perché prima donna, lo sappiamo, in Italia avrebbe così una sfumatura, no? Ironica, e quindi si è bastarda quella che vuole essere protagonista. Non andrebbe bene. È vero che quando parliamo di potremmo dire prima signora, però nella tradizione italiana invece la moglie del Presidente della Repubblica, per esempio, è stata a lungo chiamata donna. Ricordo per quelli meno giovani che questo titolo è stato dato per esempio a donna Ida Einaudi, a donna Vittoria Leone, a donna Laura Segni, e poi devo dire forse l'ultima è stata donna Franca Ciampi. E poi direi che ultimamente è vero che ci sono stati presidenti con mogli appartate, oppure che non amavano, che erano vergine, cioè. Però devo dire che il termine donna con questo significato si è andato un po' appannando. Sì. Lo dico perché per esempio Carla Voltolina, la moglie di Pertini, non era chiamata mai, non si parlava mai di donna Carla, e direi che neanche attualmente, lo dico proprio da un punto di vista di analisi del linguaggio giornalistico, la moglie di Napolitano non viene chiamata donna Clio. A me questo non sembra un male, mi sembra un po' antico questo modo, e non mi sembra casuale il fatto che non si usi donna per donne come quelle che ho citato, Carla e Clio, tanto per intenderci, che hanno avuto una loro professionalità totalmente staccata da quella del marito e quindi non vissute, allora, come accompagnatrice, diciamo. Sì, ecco, perché altrimenti è un po' un donna così decorativa, no? Una signora che solo per essere moglie tutta la sua individualità è riconosciuta in questo. Ecco, non mi sembra un male, insomma. Beh, che donna venga progressivamente abbandonato e che quindi le cose lentamente cambino, proprio per rifarmi a quello di cui stavate parlando prima. Grazie mille a Valeria Della Valle. Adesso, mentre ridò per gli ultimi credo 57 secondi la parola a Maria Latella, io intanto ringrazio la parte tecnica, il nostro Fabio Cantadori, poi c'è Gigi Borghi presissimo con le telefonate in assistenza e regia. Maria, abbiamo proprio questi secondi per concludere, so che le risposte potrebbero essere tante, ma decidi tu come chiudere. Agli ascoltatori che mi hanno posto delle domande, e non è mio costume non dare risposte quando mi pongono delle domande, per certo. Cui molto sinteticamente alla signora Lais io non ho la presunzione di essere come dire più competente di quelli che appunto da anni stanno cercando una soluzione per le scorie. Ricordo però una banalità: abbiamo delle centrali nucleari che producono scorie e inquinano le falde a pochi chilometri dai nostri confini in Francia, e quindi è un problema che non mi porrei per la sola Italia, laddove ora si torni al nucleare, è un problema che va visto nella sua globalità. Dicevo prima che forse tornare oggi al nucleare non avrà la stessa efficacia e non ci porrà al riparo da tanti problemi anche di natura economica, sarebbe stato meglio rimanere nel nucleare quando invece si decise malauguratamente di sottrarci. E invece per quanto riguardava la posizione della questione posta dall'ascoltatore, sempre Alessandro, il giovane Alessandro, che più o meno riguardava anche lo stesso tema. Io rimango della mia opinione, insomma, sulle centrali nucleari oggi si torna indietro ed è forse troppo tardi. Io penso che tutti noi, come facenti parte della pubblica opinione, dovremmo essere più attenti quando vogliono a tutti i costi condizionarci e portarci a pensare in una forma di pensiero unico che sia giusto sempre tutto una cosa o tutto un'altra. Coltivare il dubbio è una cosa saggia. Grazie allora Maria Latella. Roberta Giordano vi saluta, vi augura di continuare a coltivare il dubbio naturalmente e una felice continuazione.